Ricordati che tanti pentiti hanno parlato del terzo livello, ma poi si sono frenati. Ricordati che il signor Fanco è il quarto livello. Puparo non puparo, si tratta di vedere se ci fossero dei complici. L'arresto di Massimo Ciancimino, questa settimana storiacce con la voce dei protagonisti. Tra pizzini, manomissioni, misteri, ma anche trattative e pupari. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto sabato alle 13.15 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.